Buon pomeriggio a tutti. Questa appunto un'iniziativa che è stata promossa, come ha detto Tommaso, dalla Libreria Calusca, dal figlio Primo Moroni, dal COX 18, prevede appunto, due interventi parlati e un tramezzati da un intervento musicale. Il primo intervento è di Daniele Ratti, della Federazione Anarchica Milanese e dell'Associazione Culturale Teresa Galli, associazione che è dedicata alla prima vittima del fascismo in assoluto, uccisa il 15 aprile del 1919. Daniele, insieme al collettivo Casciavite, ha... Vabbè, poi lo presenti la dizione esatta. Sta lavorando appunto su un percorso che parte dalla morte di Giuseppe Pinelli arriva fino a oggi, sulle vittime dello Stato, non direttamente politiche, no? Non morti in manifestazione o queste cose, ma quelli che sono stati, che sono morti per altri motivi, nelle carceri, negli ospedali, sulle strade. Niente, questo lavoro poi diventerà un libro che speriamo venga presentato, se si riesce, per l'anniversario di Carlo Giuliani. Quindi io do la parola adesso a Daniele. E poi dopo presenterò il gruppo, il trio che si è costituito per l'occasione e che farà degli interventi. Appunto, loro, il titolo del loro intervento è Date fiori ai ribelli caduti, che è una frase di una canzone di Pietro Gori. E appunto, le loro canzoni spazieranno dal primo antifascismo, quello che spesso si dimentica degli anni 20. E arrivando che poi fino al 68, passando per la Spagna e per la Resistenza. Quindi adesso do la parola a Daniele. Allora, vi ringrazio, ciao a tutte e a tutti di essere qui presente. Sono Daniele Ratti della Federazione Anarchica Milanese, della Federazione Anarchica Italiana, dell'Associazione Teresa Galli. Con me c'è l'amica e compagna Vittoria del collettivo studentesco Asadi. Io con il collettivo studentesco Asadi e con il Casciavite, che sono giovani e giovanissimi, credo che il più anziano abbia non oltre 26 anni, ma gli altri difficilmente raggiungono i 24 e 25, il grosso ci sono anche minorenni, quindi questo qua è già un qualcosa, considerata la mia diversamente da giovane, è già un qualcosa che ha un significato, ne parlerò alla fine. Abbiamo messo in cantiere, è già stata consegnata la bozza all'editore, Prospero Editore, di un libro che l'editore ci ha confermato essere l'unico lavoro fatto in Italia strutturato in questo modo. Il libro uscirà il 24 di giugno in corso di revisione, di bozze, di aggiunte, di correzioni. Cosa parla il libro? Il libro parla di un filo rosso che dalla morte di Pino non è citato, ma in realtà è molto citato nella prefazione perché Claudia Gentilmente Pinelli ha redatto lei la prefazione del libro, ma parte da lì, parte dagli anni 70 e arriva ad oggi, e perché è l'unico lavoro, come ci ha confermato l'editore, ripeto, presente in Italia. Perché abbiamo voluto raccontare gli omicidi di Stato, infatti si chiama, il titolo è Sappiamo chi è stato. Gli omicidi di Stato generalmente vengono intesi nel nostro ambiente, nell'ambiente, la faccio breve, uso parole semplici, degli antagonisti, come i morti di piazza. Sì, ricorderemo senz'altro i morti di piazza, ci sono i morti di piazza, ma c'è qualcosa che invece non viene mai ricordato nei nostri ambienti, cioè con gli antagonisti, e non viene non solo ricordato, ma è del tutto sconosciuto. Per noi lo Stato non presenta solo, ha presentato il suo volto feroce nell'assassinio di Sarantini, di Lo Russo, nell'assassinio di Carlo Giuliani, cioè nelle piazze. Ma il volto più feroce dello Stato sono le 500 circa episodi che noi abbiamo ricostruito, traendoli da fonti giornalistiche, perché non ci sono altre fonti da cui trarle. Già questo è indicativo e ci pone una domanda. E dal 1970 ad oggi nessuno, e questo è colpa anche mia, perché avrei dovuto pensarci già qualche decennio fa, nessuno si è mai preoccupato di circoscrivere la violenza dello Stato, se non, ripeto, ricordando, giustamente ricordando, i morti di piazza. Quindi cosa abbiamo fatto? Attraverso le fonti giornalistiche, io e lei abbiamo lavorato in gruppo, in otto, cinque ragazze, due ragazzi, io che non sono più ragazzo, e lei tra le cinque, io e lei abbiamo lavorato sull'archivio nostro, alla FAI, abbiamo spulciato tutta lotta continua, gli altri hanno spulciato i giornali nazionali di riferimento e soprattutto i giornali di provincia, perché tutte queste notizie non vengono spesso riportate dai giornali nazionali, già questo è un fatto significativo, ma dalla stampa locale, probabilmente per riempire, perché la necessità di riempire le cronache. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo nucleato, descritto brevemente in schede questi 500 morti, ma ci siamo fermati perché l'editore, giustamente, per sue esigenze editoriali, ha detto fermatevi lì, perché altrimenti l'elenco sarebbe stato ancora più lungo. Abbiamo descritto i morti nelle carceri, i morti in strada, i morti in strada significa i blocchi stradali, i morti durante gli scippi o durante le rapine, i morti negli OPG. I morti durante il TSO, i morti nei CPR, i morti nelle caserme, i morti nelle questure. Ecco, abbiamo quindi svelato un volto dello Stato che secondo noi è molto più feroce che non la repressione o l'omicidio in piazza durante una manifestazione politica. Perché, e qui non voglio essere frainteso, io c'ero a Genova in quei giorni, si può capire forse, capire e non giustificare. L'omicidio di Carlo Giuliani, ovviamente, ovviamente, ma in un contesto emotivo particolare. Ma come è morto Aldo Grandi, che ha avuto i testicoli spappolati e l'hanno massacrato per un'ora? E non si può, perché lì lo Stato mostra il suo volto più feroce, la predeterminazione, e va avanti a massacrarlo. Non si può morire come Mastro Giovanni, ma come Mastro Giovanni è morto settimana scorsa un altro legato in un letto di contenzione, perché semplicemente negli OPG mancano il personale, perché in questi decenni è stato tagliato tutto il welfare e quindi lo Stato, oltre al volto feroce, mostra il volto dell'incuria. Non si può morire in carcere, abbiamo enucleato 280 episodi di gente che in carcere non dovrebbe manco metterci il piede al di là del reato. Perché se uno pesa 180 kg, è cardiopatico e diabetico e altre malattie, è chiaro che in una situazione carceraria muore. Ma se sta male non può passare una settimana prima che venga visitato. Ecco il volto feroce dello Stato. Quanti morti come Floyd? E qui c'è una domanda. Ma perché le morti, che sono decine che noi abbiamo enucleato come Floyd, e qui a Milano l'ultima è stata 4 anni fa sui Navigli, perché non sono mai venute alla luce? Ma anche nel nostro mondo antagonista, ripeto, ed è un'accusa che faccio io nei miei confronti da anarchico, perché non sono mai stato attento a queste cose? E man mano il lavoro procedeva, era veramente una meraviglia incredibile, ma una meraviglia drammatica del perché queste cose non sono note, non sono note. E allora vengono fuori due elementi essenziali, l'omertà di tutta la struttura dello Stato. Perché quando uno muore in carcere non è solo omertoso il direttore del carcere, ma il direttore sanitario del carcere, ma è omertoso anche il 118 che viene chiamato con larghissimo ritardo, quando spesso dopo portato in ospedale muore dopo mezz'ora o qualche minuto. È tutto l'apparato civile dello Stato che crea queste situazioni. E naturalmente la domanda conseguente è: ma perché i giornali non ne parlano? Perché solo i giornali di provincia? Li abbiamo trovati molti giornali di provincia e non i giornali nazionali. Quindi abbiamo ridato un nome a queste 500 vittime. Alcune sono famose, ma poche. Gli altri sono assolutamente sconosciuti. E purtroppo ci siamo dovuti fermare. Ci sono anche delle esigenze editoriali, perché il libro sarà di circa 300 pagine. Non potevamo fare un libro di 2000-3000, ma saremmo. Avremmo continuato all'infinito. Quindi abbiamo scoperto un mondo sconosciutissimo. Ma qual è stato quindi, L'altra riflessione fondamentale, e qui un atto d'accusa nei miei confronti e nei confronti del mondo anarchico, di cui io appartengo, e del mondo antagonista, di cui io attengo. Mi sono fatto questa domanda: ma perché noi non abbiamo ricordato mai gli sconosciuti? Perché ce li siamo dimenticati? Perché abbiamo continuamente ricordato e messo le bandierine ciascuno sui propri morti? E questa è un'altra cosa che invece ve lo propongo a voi come riflessione. In tutti questi anni ciascuno ha posto la bandierina sul proprio morto, lo russo quando c'era lotta continua, noi anarchici su Serrantini, eccetera. I morti non hanno colore della bandiera. I morti hanno due cose, perché questo ci siamo accorti nel lavoro. Non c'è un figlio di un notaio, non c'è un figlio di un primario, non c'è un figlio di un ricco. Sono tutte persone che non servono alla società o che a curarli rappresenterebbero dei costi che oggi la società non si può più permettere. Allora viene legato al letto di contenimento, si incendia il reparto, l'infermiere è uno che ne deve curare 50 e muoiono. E allora durante i TSO, invece di intervenire chi deve intervenire, interviene chi? La vigilanza urbana, interviene il carabiniere. Dopo un quarto d'ora quello muore, dopo arriva il 118. Quindi è ora. E questo lavoro per me ha la valenza massima di aver ridato voce agli sconosciuti, ma finalmente di aver tolto le bandierine dei morti, perché le bandierine dei morti non hanno colore, non hanno il colore delle bandiere rosse e nere dell'anarchia, non hanno il colore di quel dato, di quella data bandiera rossa o dell'altra. I morti sono morti. Siamo impegnati con la famiglia di Carlo Giuliani per ricordare Carlo Giuliani come un ragazzo di 23 anni, non uno di quelle fazioni che la c'era in piazza. Ma dove è stata la scintilla per fare questo? È stata il 15 dicembre, ero in piazza, come voi sapete, è 50 anni che il 15 dicembre in varie forme si ricorda Pino. E io, è 50 anni che lo ricordo Pino. Ma lì è successa una cosa straordinaria, che ha fatto scattare la scintilla del libro, però lo deve dire Vittorio del collettivo studentesco Asalì, dopo mi ridarà la parola. Ciao a tutti e tutte, io sono Vittoria, come diceva Daniele, dell'ordinamento studentesco Asadì, sono un po' in imbarazzo, un po' emozionata, lo so, poi faccio una breve postilla, è stato proprio un lavoro intenso e lunghissimo quello che abbiamo fatto noi otto insieme, a me commuove sempre abbastanza perché 500 morti sono veramente tante persone, tante tante. Allora, prima Daniele si stava un po' commuovendo, mi stavo commuovendo un po' anche io, ci siamo commossi per mesi sui giornali, persone che nessuno ricorderà, nessuno ha ricordato e farlo noi dopo così tanto tempo è stato veramente, penso, uno dei lavori più belli che io abbia mai fatto. Io ringrazio tantissimo Daniele che è rimasto molto emozionato dal nostro striscione, quello di cui parlava. Cos'era questo striscione? In verità per noi non era niente di che, era un esperimento. Si avvicinava un po' al 15 e dovevamo ricordare Pinelli, ma come diceva Daniele, noi siamo molto molto giovani. Nel nostro coordinamento la persona che ha l'età più alta sono io, ho 20 anni, per cui io non ho vissuto l'esperienza e la morte di Pinelli sulla mia pelle e c'era forse la necessità nostra di trovare un collegamento e ricordarlo in una maniera forse più attuale per noi anche. E questa cosa l'abbiamo trovata in questo filo rosso. Abbiamo fatto uno striscione in cui, con questo filo rosso che per noi era la linea del tempo, segnavamo tutti i morti di Stato da Pinelli fino a dove siamo arrivati a trovarli. E per noi aveva un significato perché in quel momento voleva dire ragionare sul fatto che perché a 20 anni dovrei ricordare la morte di Pinelli, perché le stesse dinamiche che succedevano allora succedono anche adesso, perché Pinelli, dopo Pinelli, non è che nessuno sia più morto per mano dello Stato, la cosa è andata avanti, ce ne sono di nomi, ce ne sono 500, ma ce ne sono molti, molti, molti di più, ce ne sono molti che sicuramente saranno difficilissimi da trovare, che magari io e Daniele non siamo riusciti a trovare, perché appunto anche l'informazione è veramente basilare su questi argomenti, ce ne sono tantissimi che non abbiamo potuto mettere, ce ne sono tanti che si aggiungono ogni giorno, dovremmo creare un libro infinito e aggiornato veramente di settimana in settimana. E per noi voleva dire questo, voleva prendere un evento che era successo tempo fa, perché per noi era tempo fa, e e contestualizzarlo adesso e dire quello che succedeva ai tempi succede anche adesso, sotto diverse altre forme, ma è importante per noi ricordare Pinelli. Sì, certo, per Pinelli e per la persona che era, ma anche per la dinamica, per il fatto di ragionare su quello che ci circonda. Siamo giovani, è giusto, dobbiamo farlo, è questo il momento, ragionare sullo Stato, su quello che ci circonda, su questa metodologia forte e violenta, perché è cruenta, perché 500 nomi, ripeto, sono veramente tantissimi. E devo dire che questa era in verità la nostra idea primaria. Quando poi abbiamo incominciato a scrivere questo libro insieme, io penso che il significato sia assolutamente cambiato, perché a quel punto non era più parlare di violenza dello Stato, ma era ridare voce a chi la voce non l'ha avuta, nessuno gliel'ha data, e prendere tutti quei nomi di tutte quelle persone che sono state dimenticate e sono morte per mano dello Stato. Ci sono delle cose che sono terrificanti. Abbiamo trovato un sacco di morti così per strada, perché magari hanno appartati e un milite si spaventa e spara un colpo e lo uccide. Questa cosa potrebbe succedere a mia sorella se si apparta con un ragazzo. Io questo pensavo costantemente. Sicuramente è stato molto importante per noi, perché siamo giovani, abbiamo dovuto e voluto ragionare su quello che è l'atto dello Stato e su quelle che sono le forme in cui lo Stato entra nella nostra vita e quando e come diventa pericoloso. E questa sicuramente è stata una grandissima parte e molto molto importante, ma la vera cosa, poi l'ha detta Daniele, era ricordare gli ultimi più ultimi, chi non finisce neanche su un giornale quando muore, chi non ha una voce, non ha un nome, non ha un volto, non c'era neanche una. La maggior parte di queste persone non sappiamo neanche come fossero fatte. C'era giusto la didascalia, era veramente terribile. E quindi un po', Daniele, io ti ringrazio anche davanti a tutti loro un po'. Spero che poi quando uscirà il libro piacerà, servirà, verrà utilizzato per continuare questa ricerca in qualche modo. Noi sicuramente in parte la continueremo. Però ecco, penso che alla fine la cosa più importante sia stata questa, ridare voce a chi la voce non l'ha avuta, ridare un po' la voce agli ultimi. Grazie. Oh. Concludo con due cose. Nel libro, ripeto, uscirà 24, abbiamo parlato. Però c'è un'altra considerazione fondamentale. E qui non sto parlando del privato, perché qui il privato diventa un collettivo, diventa un pubblico. L'idea è partita dallo striscione, come ho detto, si sono commossi i familiari di Carlo Giuliani, verrà esposto sulla cancellata di Piazza Limonda il 20 di luglio. Ma qual è stato l'altro enorme insegnamento per me? Io ho 65 anni, da quando ero 11 anni, ero un bambino molto precoce che sono nato. Nei nostri circoli, io ci giro tutta Italia, in tutti i nostri circoli, e c'è la situazione che generalmente c'è nei circoli storici, cioè di un'età avanzatissima, di una media veramente elevata, e la domanda drammatica da porsi è: fra 15 anni cosa faremo? Non ci sono loro. Con loro si è instaurato un legame particolare, ma adesso, al di là del legame affettivo, che non voglio qui richiamare, perché sono cose nostre, con lei e con tutti gli altri, si è riusciti a lavorare assieme. E questa è la prima volta che io vedo una collaborazione tra chi ha 60 anni, 65, 70, non 65, con questi che sono giovanissimi, non giovani. Perché si è riusciti a lavorare assieme? E qua un altro spunto di riflessione che pongo a voi. Io parlo per conto loro, ma la cosa è stata così. Io non ho mai detto loro, io c'ero. Non ho mai detto loro, siccome io c'ero, le cose vanno fatte così. Io ho lanciato l'idea e io mi sono messo a disposizione loro, lavorando. Antonella, che è qui presente, mia moglie, si incazza anche per le ore del mattino cui iniziavo. Però mi sono messo a disposizione loro e non ho detto nulla. Io l'avrei fatto anche diversamente il libro. Ma perché quando io c'ero dovevo dire e far valere questa cosa? Ma che valore ha dire io c'ero? Oggi come oggi non ha nessun valore, perché il futuro oggi il futuro oggi, se non siamo capaci di lavorare con loro, il futuro noi non l'abbiamo più. Il futuro è Vittoria, il futuro è Leonora, il futuro è Ricky, il futuro sono gli altri gruppi, Francesca e gli altri nomi, sono loro. Quindi bisogna imparare a lavorare con loro. E secondo me la nostra generazione non deve, la deve smettere di essere sul piedestallo, perché c'era, ma scendere dal piedestallo e finalmente lasciare il campo libero a chi il futuro ce l'ha in mano. In questo caso il futuro è qui, e questa dolcissima ragazza, perché è dolcissima questa ragazza, non sono dolcissimi gli altri. Due cose. Oggi è il 25 aprile, e dare senso. Aspettavo loro che venivano dalla biciclettata, ero là nei giardini di Yuki, di Porta Venezia. C'era una signora di colore, una delle tante, quando ci sono le manifestazioni, che okay, sapete che si moltiplicano, che ti vendono. E vabbè, gliel'ho preso, io cerco sempre di prenderlo, una signora. E mi ha detto una cosa, la vita è dura. E allora forse i partigiani, una volta, non lo so se si erano battuti per la Costituzione, per la dittatura del proletariato, per il socialismo, per il comunismo, per l'anarchia. Senz'altro credo che i partigiani, soprattutto quelli giovani, si battevano per una vita meno dura, per una vita dove tutti possono, a secondo delle loro caratteristiche, possibilità e volontà, avere un qualcosa per vivere degnamente. Ma se c'è qualcuno che degnamente non vive come quella signora nera, sta a significare che pochi hanno troppo. E allora il nostro compito, ma soprattutto il loro, è far sì che i pochi non abbiano troppo e invece i diversi possono avere una vita dignitosa. Ultima cosa che non è mia, un compagno che appartiene qui all'organizzazione di queste giornate, non può essere qui, in un'altra città, e mi voleva far richiamare questa piccola cosa. Il piccolo teatro, voi come sapete, è stato un esperimento sociale già dal dopoguerra, sostanzialmente per il fatto di averlo affidato un luogo di cultura, di alta cultura come il teatro, a un ente pubblico, quindi al comune, a un'amministrazione pubblica, ha significato che ha potuto penetrare largamente nel tessuto urbano di Milano. Poi è arrivata la contestazione ha cambiato molto, la contestazione ha ribaltato tutto, ma anche molto diviso, e ciascuno ha preso un po' la propria strada. Non sta a me giudicare le strade sbagliate o diverse o no, sono passati tanti anni. Però dico che questa esperienza di questo mese e mezzo ha riaperto questo luogo fisico all'idea originaria che fu di Giorgio Grassi, cioè che la cultura non è solo il leggere il copione, avere la capacità di leggere un copione o di fare le luci o di fare un palcoscenico, ma la cultura è quella di essere portato a chi ha poche possibilità di conoscere Goldoni, di conoscere Shakespeare, ma di portarla a tutti. E qui, il palcoscenico sono stati tutti gli interventi che si sono avvenuti in questi mesi, perché qui tutte le realtà cittadine attive hanno avuto, come stiamo vedendo io Vittoria adesso, accoglimento, presentazione. E quindi non solo è stato un gesto di ringraziamento, è stata l'opportunità per tutti di capire che cosa sta succedendo sul proprio territorio. Io ho finito qua, vi ringrazio a nome di Vittoria, di tutti gli altri, con le due cose lì, del Casciavite, a nome di Daniele, ma anche di Antonella, che mi ha sopportato in questi mesi. Funziona, ok, grazie. Ringraziamo ancora Daniele per questo suo intervento, e credo che ci abbia un po' colpito tutti, no, questo questo aspetto dello Stato che forse per noi era quasi una normalità leggere sui giornali che c'era un motoposto di blocco, uno all'ospedale, uno in carcere. Voglio ricordare che all'inizio di questa pandemia sono morti diversi detenuti e sono stati liquidati come tutti i tossicodipendenti e si sono fatti un overdose. Io non credo che sia così, però questo è quello che è passato. Proprio riallacciandosi all'intervento di Daniele, questo trio che sono Giada, Marco e Tiziana, che si sono formati per questa occasione, sono appassionati di canto popolare, di musica popolare e di canto sociale e hanno deciso così di dare una loro presenza a questa iniziativa. Inizieranno con quattro canzoni, questo primo blocco, prima che parli Franco Schirone, il secondo intervento previsto, e sono, guarda caso, tutte canzoni che riguardano il carcere. La prima è una canzone scritta da Alfredo Bandelli, che era un militante di Lotta Continua, operaio, emigrato in Germania, e descrive proprio il carcere come ce l'ha raccontato Daniele, una canzone molto dura. Poi ci sarà un'altra canzone che è stata scritta da un anarchico, Belgrado Pedrini, col titolo era una poesia, anzi, la sua poesia. Belgrado Pedrini ha un percorso molto particolare. Era un anarchico di Carrara. Nel 1942, insieme ad altri suoi compagni, disarma dei militi fascisti. Prima era stato al confine, era stato al confine con Pertini, quindi aveva già un passato di antifascista. Disarma questi militi fascisti, però viene riconosciuto e costretto a scappare da Carrara, fugge a Milano, viene intercettato a Milano mentre appigge dei manifesti, scappano ancora alla Spezia, c'è uno scontro con le forze dell'ordine, con la polizia, loro rimangono feriti, il poliziotto muore. Viene portato in carcere in attesa di processo, che sicuramente sarebbe concluso con la condanna a morte. I partigiani della zona fanno un'azione, liberano i detenuti, lui si unisce alla resistenza e finisce, diciamo, al 25 aprile con questo gruppo partigiano. Subito dopo qualcuno bussa alla sua porta e gli chiede conto di quel poliziotto morto, che non è morto tra l'8 settembre e il 25 aprile, morto prima, e quindi non rientra né nell'amnistia Togliatti e nessun altro tipo di, diciamo, di condono. Per cui si fa 30 anni di galera, uscirà a metà degli anni 70, grazie a una campagna anche di mobilitazione, e in questa campagna questa sua poesia viene presa e musicata ed è Il Galeone, che è entrato nel repertorio degli anarchici. Le altre due canzoni riguardano sempre il carcere, una sui fatti e sulla repressione dei primi del Novecento contro gli operai delle acciaierie di Terni, e un'altra invece una canzone di cantastorie che riguarda un altro fatto, però anche questo che ha visto, cioè è stato molto importante nei primi anni 20 del Novecento, la vicenda di Sacco e Vanzetti. Quindi con queste quattro canzoni abbiamo il primo intervento musicale. Botte su botte, poi l'isolamento, spesso finisce così. Quei brutti boia, figli di Troia, non fanno che pestare. Non ci si può neanche lamentare, non si può neanche parlare. Basta un lamento per il carcerato, per essere massacrato. Delle vostre galere un giorno un buon uso sapremo far. Prima apriremo le porte agli schiavi e accoglieremo nell'umanità, e dopo in fila, uno per uno, vi metteremo tutti là. Il tribunale del proletariato i vostri delitti dovrà giudicare. Siamo Saliti tutti sul tetto, gridando sporci nazisti. Vogliamo avere i nostri diritti, o la dovrete pagare. Ci ha risposto il direttore con 1000 poliziotti. E dai giornali è andato a dire che era disposto a trattare delle vostre galere un giorno. Un buon uso sapremo far, prima apriremo le porte agli schiavi, li accoglieremo nell'umanità, e dopo in fila, uno per uno, vi metteremo tutti là. Il tribunale del proletariato i vostri delitti dovrà giudicare. E se per caso voi sentirete che è morto un carcerato, certo è possibile che quel disgraziato sia stato massacrato. Ma se vi parlano di rivolte, di notte nelle prigioni, è perché cresce la lotta di classe contro tutti i padroni. Delle vostre galere un giorno, un buon uso sapremo far, prima apriremo le porte agli schiavi, li accoglieremo nell'umanità, e dopo in fila, uno per uno, vi metteremo tutti là. Il tribunale del proletariato i vostri delitti dovrà giudicare. La ciurma nemica, una galera infame, su cui rattano morte, miete per lenta fame. All'orizzonte limpi, chiude la nostra aurora, e sulla tolda squallida urla ascolta ognora. I nostri dici volano tra peli del carico, sciamagri smunti schiavi, stretti in ferro catene. Sorge sul mare la luna, cancelle in cielo, ma sulle nostre luci vede un funerio velo, dorme in schiavi adulti, il cadaver sul vento, mettiamo in città e in me, vignati mai vorremmo, brevemente schiavi, parti, quest'ore madre, madre, meglio morir tra i fiumi, sul biancheggiar del mare, veniam finché la nave, i pianti sui frangenti, altre le rosso nere, tra il sibilar dei venti. Sia pietosa coltrice, l'onda scuota e via, ma sorga un dì sui martiri, il dolore da via. E gli allarmi, allarmi, la gorgoglia state, buoni male. Con le mie, Battalotto, ma saranno le nove, i miei figlioli non digiuni ancora, ma viva il coraggio, chi lo sa portare infame società, dacci mangiare. Viva il coraggio, chi lo sa portare l'anarchia, la lo dipenderebbe, ma viva il coraggio, ma chi lo sa portare i miei figlioli han fame, chiedono pane. Anch'io da socialista mi voglio vestire, bello e rosso, rasteso le bandiere, ma verrà qui giorno della rivoluzione, infame società, dovrai pagare. Verrà qui giorno che la dovrai pagare, verrà qui giorno della rivoluzione, ma verrà qui giorno della rossa bandiera, infame società, dacci mangiare. Viva il coraggio, chi lo sa portare Amo mia moglie e la famiglia mia, ma viva il coraggio, chi lo sa portare infame società, dacci mangiare. Sei socialisti e piene le galere, va da governo infame maltrattore, ma verrà qui giorno della rivoluzione, infame società, dovrai pagare. Grazie. Amici, Moide. Sì, volevo solo aggiungere che quest'ultima canzone, che è una canzone da cantastorie, era proibita durante il regime fascista. E anche la conclusione, questa Viva l'Italia, abbassi il re, spesso i cantastorie concludevano con Viva il re, cosa che Sacco e Vanzetti non avrebbero mai detto, però era il modo per poterla cantare. E rientrò appunto nei divieti, nei sequestri, eventuali dischi di questa canzone. Adesso passiamo al prossimo intervento, previsto, che è quello di Franco Schirone, un libero ricercatore della storia del movimento anarchico, ma in particolare oggi interverrà su appunto l'altra resistenza, come dice il titolo del suo intervento, l'altra resistenza, quella meno raccontata, quella dei movimenti libertari che parteciparono anche loro attivamente alla liberazione. Pronto? Sì. Sì, buonasera a voi tutti e tutte, e grazie per essere qui per ricordare il 25 aprile. Allora, io dovrei parlarvi di una storia che non è molto raccontata né nei libri di storia né nelle ricerche di storici che abbiamo avuto modo di leggere nel corso di tutti gli anni 50, 60, 70 e 80. Solo da qualche tempo a questa parte finalmente si comincia a parlare, a discutere anche e a far conoscere quella che è stata l'opera dei libertari nella guerra di liberazione. Una lotta che per gli anarchici e non solo, ma anche per tutta quella sinistra rivoluzionaria che non si riconosceva neanche nel partito, va bene? È una storia che comincia non certo dopo l'8 settembre del 1943-45, è una lotta che inizia immediatamente con l'avvento del fascismo, immediatamente dopo il Biennio Rosso. E allora, per parlare anche di resistenza e di antifascismo, bisogna dare un cenno, no, a quello che è successo prima. Sicuramente bisogna ricollegarci al periodo 1919-20, al Biennio Rosso. Il Biennio Rosso che ha visto il movimento dei lavoratori attivo nelle fabbriche, una contestazione radicale per cercare di superare quello stato di cose allora presenti, una volontà rivoluzionaria che attraverso il movimento rivoluzionario, attraverso l'opera dei sindacalisti rivoluzionari, volevano cambiare completamente. E le lotte che si sviluppano in quegli anni lì sono importanti, perché con l'inizio delle occupazioni delle terre incolte un po' in tutta la penisola, e nel 1920, nel settembre, con le occupazioni delle fabbriche, perché si lottava per un rinnovo contrattuale dei metalmeccanici, ecco, l'occupazione delle fabbriche ha rappresentato l'espressione più alta di quella lotta lì, un'espressione importantissima, perché moltissime fabbriche sono state dirette, andava avanti la produzione fatta direttamente dagli operai. Fabbriche che venivano occupate e difese con le armi, certamente. Ecco, la spaccatura poi all'interno del movimento operaio con una parte importante, la Confederazione Generale del Lavoro, che va a firmare col padronato un accordo, chiaramente pone fine a questa importante situazione. Porre fine però nel settembre, nell'ottobre del 1920, tutte quelle situazioni che sono state attivissime nell'ambito delle occupazioni vengono immediatamente carcerate. Tutta la redazione di un giornale, il quotidiano anarchico Umanità Nova, che si pubblicava a Milano allora, tutta la redazione viene arrestata. 15 giorni dopo viene arrestata tutta la componente dell'Unione Sindacale Italiana, che bisogna anche ricordare era il secondo sindacato dopo la Confederazione Generale del Lavoro. L'USI contava 500.000 aderenti, la CGIL ne contava 1 milione, e questo ci fa capire di come era radicalizzato un pensiero libertario nell'ambito sociale, soprattutto tra gli operai. Non è un caso che Anna Kuliscioff, in una famosa lettera a Filippo Turati lamentava il fatto che a Milano gli operai sui tram, invece di avere l'avanti in mano, in tasca, va bene, avevano l'Umanità Nova. L'Umanità Nova che veniva diffusa in 60.000 copie, l'avanti veniva diffuso in 80.000 copie, e dobbiamo aspettare il 24, quando poi nasce l'Unità, l'organo del Partito Comunista Italiano, che pubblicava e diffondeva 40.000 copie. Quindi questa ci dà proprio una dimensione importante di cosa bolliva in quel periodo. La repressione subito, immediata, nei confronti dei rivoluzionari, dei radicali, sia politicamente sia a livello sindacale, è fortissima. E da lì la reazione anche fascista, la carriera fascista che viene foraggiata chiaramente dagli agrari, dal padronato, ecco, e le camere del lavoro vengono volta a volta distrutte, le case del popolo ugualmente, tutti quei ritrovi, no, della sinistra, di tutta la sinistra, con camere del lavoro confederali della CGIL e camere del lavoro sindacali, che erano le camere del lavoro dell'Unione Sindacale Italiana, ecco. Bisogna fare un cenno anche agli arditi del popolo, sicuramente. In quel periodo, a fronte di questa canea reazionaria fascista, si mobilitano in molti. Vengono costituiti gli arditi del popolo a Roma e si diffondono un po' in tutte le città d'Italia. Sono alcune migliaia di aderenti che si pongono a difesa dei luoghi gestiti dai lavoratori e dalla sinistra. Chi sono gli arditi del popolo? Fondamentalmente sono operai, lavoratori, aderenti a tutti i partiti, al Partito Comunista Italiano, al Partito Socialista, ai Repubblicani, agli Anarchici. Bene. Ma c'è da dire anche una cosa a proposito. Non tutta la gerarchia politica di Partito Comunista, Partito Socialista e Partito Repubblicano era favorevole, va bene, alla Costituzione e all'adezione dei propri iscritti agli arditi del popolo. Soltanto gli anarchici, attraverso Umanità Nuova, attraverso le parole di Enrico Malatesta, soltanto loro li sostenevano. E moltissimi sono entrati, ma non è un caso comunque che a livello nazionale gli arditi del popolo erano composti soprattutto da operai, da lavoratori, comunisti, socialisti, repubblicani, libertari. E questo è una sorta di unità di azione che si è concretizzata, diciamo, dal basso. Il fascismo arriva al potere, molti sono costretti ad emigrare. Per quanto riguarda i sindacalisti rivoluzionari, nel 1925 saranno ben 60.000 di numero, no, di operai e di lavoratori che sono costretti ad abbandonare la propria famiglia, il proprio paese e fuggire. Una metà, 30.000, è costretta a fuggire completamente fuori dall'Italia, soprattutto in Francia, ma anche in Belgio, in Lussemburgo, in Svizzera, in America del Nord, in America del Sud, dappertutto. Ecco. E altri 30.000 sono costretti a cambiare città perché era irrespirabile l'aria per loro. Immediatamente si organizzano anche strutture di aiuto nei confronti di chi ne ha bisogno, si costituisce un organismo per aiutare i figli di questi lavoratori che partivano praticamente la fame, ecco, e viene messa comunque fuori legge ogni tipo di organizzazione di aiuto e di solidarietà nei confronti di viene colpito dalla repressione. Ecco. Questo per quanto riguarda l'Unione Sindacale Italiana. Per quanto riguarda invece il movimento anarchico specifico, non c'è un numero esatto dei fuoriusciti, ma si parla di alcune decine di migliaia, molto attivi all'estero, molto attivi in Francia, e tutti i luoghi dove loro si trovano portano avanti la controinformazione su quello che succedeva in Italia lungo tutti gli anni 20, tutti gli anni 30. Sono moltissime le pubblicazioni che vengono stampate all'estero e diffuse clandestinamente sul territorio italiano. E questo è importante anche sottolinearlo. Ed è soprattutto anche all'estero i più attivi vengono espulsi dalla democratica Francia, per esempio. Molti di loro sono presi e rimandati in Italia sotto le grinfie fasciste, oppure mandate al confino politico. Per quanto riguarda il confino politico, bisogna comunque ricordare che gli anarchici non sono mai stati secondi a nessuno. Sono più i militanti del Partito Comunista Italiano, va bene, ma i militanti anarchici sono la seconda componente, va bene, costretta al confino politico. Poi alla lontana arrivano i militanti, diciamo, del Partito Socialista, qualcuno del Partito Repubblicano, e poi negli anni più avanti del regime qualche democristiano e qualche liberale che cominciava ad avere dei dubbi rispetto al fascismo. Comunque questa è la situazione. Naturalmente anche in Francia soprattutto ci sono dei tentativi di colpire Mussolini, ecco, e ci sono diversi attentati falliti. All'interno invece, nel corso di tutto il ventennio fascista, all'interno comunque ci sono stati dei momenti importanti di coesione e di lotta clandestina. Non è un caso che lo spionaggio fascista e l'Ovra, va bene, avevano posto un grosso problema al governo di Mussolini. Questa ripresa clandestina sul territorio nazionale, mentre quello che succedeva all'estero, in Francia, in Belgio, in Svizzera soprattutto, ecco, lì avevano sguinzagliato una miriade di spie all'interno di tutta la componente fuoriuscita, non solo gli anarchici ma anche i socialisti, i repubblicani e i comunisti. In Italia invece non riuscivano, sfuggiva all'attenzione occhiuta dell'Ovra quello che succedeva e le azioni che venivano fatte. In tutte le parti d'Italia venivano trovati volantini, c'era una marea di scritte anarchiche su tutti i muri del territorio. Questo è sempre l'Ovra che informa semestralmente il governo e Mussolini di quello che bolle in pentola. Quando arriva, e poi vabbè, un'altra cosa importante, solo un accenno, è la rivoluzione spagnola del 1936-1939. Ecco, il primo gruppo di 180 persone che accorre in Spagna nel luglio del 1936 sono 180 fuoriusciti, una componente diversa politicamente. 80 di loro erano anarchici, va bene? Una quarantina erano di Giustizia e Libertà. C'era una componente di comunisti e comunisti internazionalisti, ecco, ed è una componente repubblicana. Camillo Berneri è quello che organizza tutto, e partono e arrivano alla prima battaglia a Montepelato. A Montepelato, una battaglia famosissima che passa nella storia, dove viene fermata anche l'avanzata delle truppe di Franco, ecco, questa primissima colonna italiana ha lì il battesimo del fuoco, dove muoiono in parecchi. Voglio ricordare semplicemente che due internazionalisti del Partito Comunista Internazionalista di Milano vengono uccisi a Montepelato. Una loro targa di ricordo la troviamo al quartiere Isola. Ecco. Questo per quanto riguarda la Spagna e l'organizzazione poi delle brigate in Spagna. Tenete conto che nella allora Repubblica Spagnola la componente libertaria, attraverso il sindacato anarco-sindacalista, la CNT, conta 2 milioni di aderenti. Ed è stato quel sindacato che ha messo in atto l'autogestione nei campi, nelle fabbriche e nelle officine, nonostante la guerra civile e nonostante anche la contrapposizione che ha avuto di altri partiti, volevano invece cose diverse. Bene, questo è una sorta di preambolo per capire che cosa succede poi nel 1943-1945. Con l'8 settembre del 1943 vengono liberati tutti i prigionieri politici dalle isole confinarie. E quindi loro ritornano nei loro paesi d'origine a organizzare la resistenza al nazifascismo. Due componenti non vengono liberate in quell'8 settembre, ma lo faranno alcuni mesi dopo, saranno liberati alcuni mesi dopo. La componente degli zingari e la componente degli anarchici. Bene, 300 militanti rinchiusi a Ventotene che vengono presi e deportati in Toscana ad Anghiari, in provincia di Arezzo, in un campo di concentramento fatto apposta per zingari e anarchici. Col passare del tempo ci sono delle sollevazioni, praticamente tutti riescono a scappare da Anghiari, a ritornare anche loro nei loro paesi d'origine e cominciare a organizzare la resistenza, purtroppo in ritardo, no, di alcuni mesi rispetto a quello che hanno potuto fare noi militanti di tutti gli altri partiti. Ecco, ma ripeto, non sono stati secondi a nessuno, no, rispetto a quello che hanno portato avanti. Io vorrei, entrare a raccontarvi un attimino, ad elencarvi più che altro una sorta di geografia del movimento libertario e non solo, di quella che è stata la loro lotta partigiana. Se gli anarchici la conoscono abbastanza, questa loro storia, i non libertari chiaramente conoscono soltanto l'opera del Partito Comunista e del Partito Socialista. Ecco, questa, come dire, geografia del contributo anarchico nella lotta partigiana è importante che venga sottolineata. Ecco, allora, prima della caduta del fascismo, ancora prima dell'8 settembre 1943, scusate, guardo l'orologio perché i tempi sono limitati. Prima dell'8 settembre 1943 ci sono delle riunioni segrete di anarchici, ecco, a Firenze e poi anche in altri luoghi della Toscana, e lì decidono di riprendere le pubblicazioni del loro giornale che era stato distrutto dal fascismo nel 1921-23. La ripresa di Umanità Nova, ecco, che esce clandestinamente a Firenze per una 12 numeri, dal 1943 fino all'inizio del 1945. E parallelamente in Liguria, precisamente a Genova, all'avvio, diciamo, dell'insurrezione, alla vigilia dell'insurrezione, cioè il 24 e il 23 e 24 aprile 1945, gli anarchici, che sono organizzati in diverse brigate, fanno uscire un loro giornale, sempre con lo stesso titolo, un numero unico, di Umanità Nuova. Parallelamente a Roma, l'altra componente anarchica fa uscire anch'essa quattro numeri di Umanità Nuova nel periodo tra luglio e dicembre 1944. Ecco, questo naturalmente non è l'unico giornale clandestino che esce, ne vengono stampati di testate diverse, soprattutto a Milano saranno sei testate: l'Azione Libertaria, il Comunista Libertario e altri. Altri giornali vengono stampati a Roma, vengono stampati a Bari, insomma un po' in tutta Italia c'è questo nuovo importante movimento e reazione che portano avanti i libertari. Ecco, cosa vuol dire ancora? Nel 1943 viene fatto il secondo convegno clandestino a Firenze, dove si comincia a parlare di organizzare l'insurrezione. E dopo la fuga dalle Nici di Angari, chiaramente dei compagni fanno il loro dovere. E partiamo questa geografia con una regione del sud, la Sicilia. In Sicilia nasce una sorta di fronte unico dei lavoratori, no, organizzato da repubblicani, socialisti, anarchici e comunisti. Una sorta di fronte unico contro il fascismo che si pone subito nella lotta frontale e pubblica una serie di giornali clandestini proprio per sensibilizzare la pubblica opinione. Anche in Puglia la stessa cosa. In Puglia i vecchi anarchici entrano nei gruppi del Partito Comunista Italiano. Per quale motivo? Perché non c'era la possibilità di formazioni proprie, autonomi. Quindi a livello nazionale c'è da ricordare che gli anarchici riescono a organizzare gruppi specifici in quelle località dove tradizionalmente sono stati presenti. Ecco, voglio dire la Toscana, la Lombardia, la Liguria, il Piemonte, le Marche e l'Emilia Romagna. In altre situazioni dove non potevano organizzarsi da sé, moltissimi anarchici sono entrati a far parte delle brigate Matteotti, delle brigate Garibaldi, delle brigate Giustizia e Libertà e in tutti i raggruppamenti autonomi che erano presenti sul suolo nazionale. Ecco, solo in Puglia, per quanto riguarda la Puglia, dicevamo prima, solo a Canosa di Puglia, si riesce a organizzare una formazione libertaria. Gli anarchici di Canosa di Puglia sono famosi per le loro lotte durante tutto il periodo fascista. Figuriamoci che erano attivi gruppi ancora fino al 1937, va bene? Erano attivi nella città e la popolazione li conosceva. Sono stati loro, durante la liberazione, a spaccare, diciamo, le macine, cioè ad aprire i forni, a prendere la farina, distribuirla alla popolazione affamata. E per dire, in quel periodo lì erano addirittura 3.000 gli aderenti ai gruppi libertari della sola Canosa di Puglia. Un'altra azione importante antifascista è stata effettuata dagli anarchici pugliesi a Bari, davanti al carcere, per pretendere la liberazione di tutti i detenuti politici. Ok. E sono state degli scontri, addirittura sono stati 23 morti e 63 feriti. A Napoli, nei giorni dell'insurrezione, sono stati tra gli animatori della storica lotta degli scugnizi contro i tedeschi. A Roma la partecipazione è stata grande, in Stella Rossa, per esempio, e tra gli assassinati alle fosse ardeatine ci sono almeno 8 anarchici. Nelle Marche, tramite un vecchio anarchico, portavanti ex confinato Picco, diviene commissario politico di una formazione partigiana nella provincia di Macerata. In Toscana, voglio solo ricordare, le famose organizzazioni Lucetti, Michele Schirru, Macchiarini, che erano raggruppamenti specifici di Massa Carrara, dove hanno praticamente fermato e respinto l'occupazione tedesca. In Emilia Romagna, ad Imola, a Piacenza c'è da ricordare Emilio Canzi, anche lui fu riuscito, ardito del popolo in passato, è stato come dire il comandante unico della divisione partigiana formata da 20 brigate, 12.000 uomini, guidandola per un anno e mezzo fino alla liberazione di Piacenza. E così anche Liguria. Siccome il tempo è tiranno, vorrei semplicemente terminare dire che in Lombardia, a Milano soprattutto, erano presenti le formazioni Bruzzi Malatesta di un 2500 uomini tra Milano e Pavia, che hanno partecipato nelle giornate cruciali del 24, del 25 e del 26 aprile, difendendo, diciamo, fabbriche occupate, difendendo la RAI per poter trasmettere i notiziari e tutto, ecco, e soprattutto nella zona ticinese ci sono state delle espropriazioni di negozi, di fabbriche, di noti fascisti, e c'è stato un tentativo di cooperazione diretta dei lavoratori nella gestione di queste piccole situazioni. Ecco, io chiuderei qui, se ne sarebbe parlato veramente tanto, no? però è importante che questa storia venga conosciuta e riconosciuta soprattutto, ma noi libertari, per noi è sufficiente che venga riconosciuta dal basso, dai lavoratori e non dai politicanti, come sempre. Grazie. Vado. Sì, volevo ringraziare Franco, e purtroppo i tempi sono stretti, ci hanno fatto devono chiudere, per cui niente, adesso concludiamo questa nostra pomeridiana con l'ultimo intervento musicale del trio. Sono anche qui tre o quattro canzoni, se ce la facciamo, sono. Una è Gli anarchici, noi siamo di Milano, è una canzone che è stata riferita da un anarchico, Leda Raffanelli, senza musica, ed è stata musicata sia su un'aria romana, anche se gli anarchici erano di Milano, e poi più recentemente su un'aria di Porta Romana, e questo è il primo pezzo. Poi ci sarà, per la memoria, faremo un salto in Spagna alla Barricada, che era l'inno della Confederazione Nazionale del Lavoro di Barcellona spagnola, poi un canto della Resistenza con i Briganti Neri, e se ce la facciamo poi questa carrellata libertaria chiudiamo con Addio Lugano Bella, che magari cantiamo tutti assieme. Quindi mi taccio subito e passo a voi la musica. Anarchici noi siamo, e dei borghesi non abbiamo paura, a noi arditi con le bombe a mano, carabinieri e guardie quest'ora. Noi abbiamo forze unite, il pensiero latinamite, e il pugnale, la fiamma agitiamo di un ideale. Gli anarchici non hanno guerreggiato per gli interessi della storia. Oltre i confini abbiamo libertato, dando la più atroce tirannia. Troppi strani conflitto tra la forte e il diritto, e le frontiere vogliamo unir tutte le bandiere. Per la bandiera nostra in ogni terra lotteremo con nuova energia, abbiata di innovare la nostra guerra, vincerla nel nome l'anarchia. Volerà la dinamite che terrà le nostre vite. Fare sul serio l'esempio ce lo dà Brescia e Caserta. La nostra storia è storia di vendetta. Contro una classe di ogni delitto, contro una società che è maledetta, alla vita negate ogni diritto, seminando la tempesta, luce già nella mia testa. Il gran ciclone che si chiama social rivoluzione, ho versato il sangue in tanti arrivi, per questa infame guerra della morte, molti soldati sono restati vivi. Di ribellione la massa più forte, ma da mattina mite, arcastite e balistite, fare la festa ed ogni male taglierà la testa. Alla sbarricata. Negra tormenta la vita. La mascherina non si sente. Rifaccio da capo. Negra tormenta la vita. Le oscura non si vive mer, anche non si spera dolori la muerte, contra il nemico nos manda al deber, en bien matreciado es la libertad, hay que defenderla con fe y con valor. Alza la bandera revolucionaria, que del triunfo si la no llevan pos. Alza la bandera revolucionaria, que del triunfo si la no llevan pos. Llevo el obrero a la batalla, hay que derrocar a la reacción, a las barricadas, por el triunfo de la confederación. A las barricadas, por el triunfo de la confederación. En pie más preciado es la libertad, hay que defenderla con fe y con valor. Alza la bandera revolucionaria, que del triunfo sin cesar no llevan por. Alza la bandera revolucionaria, que del triunfo sin cesar no llevan por. En pie pueblo obrero a la batalla, hay que derrocar a la reacción, a las barricadas, por el triunfo de la confederación, a las barricadas, por el triunfo de la confederación. Thank you.

e burlano tra i nera, e solo i nera, anonimi compagni, amici che pensate, e verità sposati, rapporti propagate, e questa la vendetta che noi vi domandiamo, e questa la vendetta che noi vi domandiamo, a tu che spirita con una menzogna Repubblica Borghese unirai vergogna. Noi oggi ti accusiamo in faccia alla TV. Noi oggi ti accusiamo in faccia alla TV. Cacciati senza tregua, andremo di terra in terra a predicarla. La guerra, la pace tra gli oppressi, la guerra agli oppressori, la pace tra gli oppressi, la guerra agli oppressori, il mezzo al tuo governo, che ancora lui ci rende. D'un popolo italiano le tradizioni offende, insulta la leggenda del tuo Guglielmo Tell, insulta la leggenda del tuo Guglielmo Tell. Io cari compagni, amici luganesi, addio biancheri neri, montagne ticinesi, cavalieri erranti, son trascinati al nord, e partono cantando con la speranza Grazie. Ciao a tutti e grazie.